Cassiano, guffetta, la guffetta, guffetto. E Mari. Cassiano, guffetta, guffetta. E Mari. Cassiano, Akai. Marico, mi accessi? Alla, e io? Attenzione, mi sentite? Marico, mi accessi? Mi sentite? Tu calagheca! Marico, mio, e io? Da bravi, sì, eh? Luca manicomio! Luca Maglio! E beh, grazie, ci sei! Luca Babilloni, sì! Ehi, ya! Non eri a mare! Va bene, ero a mare! Sì, ve la giovine, visto io oggi, e pure oggi a mare, ed eri la sdraio! E di 20 anni fa sta a foto. Era più magro, ero lì. Stamattina l'ho vista, la foto, anche ieri. Ma come, tu come secondo nome cosa sei? Il nome Maglio, pure tu, grazie. Non lo so, quando mi hanno battezzato, che nome era. Lui. Qui mi sto perdendo. Saliamo su a casa, al monte. E cosa ci fa al monte? Basta, te ne appisa, gli sai bene, che etica, è un mortuio lì al monte. Devo salire a prendere le bottiglie della birra perché ci servono per fare i pomidori. Sì, domani quando fare, a chi oggi ti devi prendere le bumate? Domani quando fare, te le metti in macchina e le scendi. No, se ce le buttano le bottiglie, mi servono oggi, o passare oggi. Sì. No, cos'è che non si rampa quando viene il camion a caricare, no, che a pulire birra, a quintali. Ma ormai le ho già prenotate, devo andare a prenderle. Ah, al circolo, vai allora, asciuga di rive, e ce l'hai tutto lo corrente, la macchina, i tappi. C'è tutto. La manetta, tappi, la pressa, la mazzina, tutto. Sì, c'è tutto, grazie a tutto. Luca Maglio! E come li bollisci dopo quando li metti nelle bottiglie, nella dambullana con i cubaccioni? Non so come fanno, grazie a voi. Io in campagna tantissimi anni fa gli facevo tutta sentata la dambullana, un filo di ampulle e rugaccione, poi piena di acqua e sotto ci buttavo tre copertoni. Adesso buttia. Non si vogliava anche così di cubaccioni? No, il fumo faceva, ma io lo facevo la notte, che non si vedeva. Bella bella. Il mazzano gli ha sentito un bel ubriaco. Sì, no, una bombola, con un fornellone, a voglia buddì. Adesso fanno tutti così, con il bombolone e il fornellone a voglia. Io lo so. Luca Maglio! Un anno ci sono usciti di mare, cazzo. E poi quando le levavo dalla tambulana le assentavo, no? Nel magazzino dove c'erano le maiali. Chissà, non sono usciti di mare, un poco. Una cinquantina sono tutte scoppiate. Non è che si può slugarsi dentro? Cosa ne so, gamma ha detto non l'hai buttato di me, e l'ha detto scusa, se non l'hai buttato di me erano scoppiate tutte. Invece una cinquantina erano esplose, un gasino tutto rotto di fumati. Me lo posso immaginare. Meno male era lì dove prima ci mettevo i maiali e non c'era, non c'è i maiali. Essere buono in casa. Cazzo. Ma io gli ho fatto un paio di anni fa qua una ventina di bottiglie. Ho messo le pentole grandi a bollire. Li ho bolliti, li ho passati e me li ho messi nelle bottiglie col basilico. Ed era nevore, a rosare. Ehi, non c'è altra cosa perché sono sani, non c'è conservanti né niente. Una ventina di bottiglie ne avrò fatte un paio di anni fa. Però qua con Paletta ho messo i pomodori, li ho bolliti, poi li ho passati. Poi li ho messi nelle bottiglie e col basilico fresco. E ti dico, ira, è un buon buio. Sì, a Luca non l'hai sentito, grazie. No, Luca non mi parla più, ha detto. Ah, cosa hai fatto? Perché non le ho vendute a lui il baracchino e l'ho venduta a un altro, 100 euro. E ognuno ha messo la bisciacca la giugna. Anche se l'avevo promessa a lui, però... gli affari sono affari, o no? Beh, se prometti, cioè come se io dico, lui ti vendo un baracchino, 50 euro, e poi magari trovo un altro che me ne dà 70, l'avevo promesso prima a lui, lo do a lui 50. No, io lo do a quello che mi dà 70, Quindi io del radio, ma da poi vado alla radio. Ma non funziona così, grazie, come se lo fanno a te. Cioè, se io ti prometto una cosa, mi grazia, c'ho un televisore, 50 euro. No, Luca me ne dà 70. Insomma, l'ho promesso prima a te, non voglio essere misero, lo sei 50, non lo do a Luca 70. No, ognuno guarda gli interessi suoi, Ai tempi di oggi è così la faccenda, Anche se tu vai in negozio, e trovi una, a me mi l'ha fatto un morto bello così e non solo, l'aveva dato pure un ventiero di caparra. Quando sono andata a dargli la rimanenza dopo un paio di giorni, ma il terno l'ho già venduto, mi ha offerto di più. Cazzo, e di te se te l'ha la caparra, io l'ho venduto di più e mi ha convinto a darla a quello là e dammi i ventieri, e mi ha tornato i ventieri. Vabbè, ma tu non puoi, cioè alla fine è un amico, se hai bisogno lo sai che è sempre disponibile e alla fine, cioè, boh, io la penso così, poi se tu la vedi diversamente, non la sto difendendo, attenzione, le cose giuste sto dicendo, io mi sarei incazzato, mi sarei offeso lo stesso, perché se la prometti a me e poi trovi a quello che ti dà 60 euro, cioè, ti sei venibile a fare 10 euro in più, 20 euro in più, l'hai promesso a me, lo prendo io, boh, finito lì, sempre amici. No, era di 60 euro in più, a me chi ci vedo, voleva fare uno scambio, non è che voleva prendere, capito, mi dava un compito e io gli davo questo, capito, se no, se me lo compravo, compito e me lo prendeva 40 euro a me, ma piace, però io non è che ero molto interessato al compito, perché ce ne ho due, la giruzzava e glielo ho anche detto. Poi alla fine corrige al raggiro di parole, ma convinta la dice, vabbè, già tu lo gaste, vieni, e invece non vedi, esci dalla faccia e mi ha domandato, mi ha domandato vinto e io vi raggiungo. Ecco, come. Ma sai come, molte volte Luca è un amico, cioè, penso che lui sia un amico, ormai gli ha dato la parola e poi, io non lo vedo giusto e poi ognuno va a dire sui balli di piazzi, io non sono così, se prometto una cosa, è come se per esempio, io sto vendendo un televisorino piccolino, no? Lo sto dando 50 euro, no? Ti faccio un esempio, e dice Luca ma lo prendo io tu che sia oggi o Maria lo do a voi, non è che poi anche tu mi devo dare 70, non lo do perché ormai l'ho promesso o a te o a Luca o a Maria, a uno dei tre lo do 50 euro. Ma io gli ho anche detto se vuole gli do l'inoitico con quell'altro microfono che nuovo nuovo mai usato, adesso mi ricordo se l'MC60 mi pare, dunque, insomma c'ha l'eco, c'ha tutto, quello con le ruotelline dietro, te lo abbini e c'hai quel baracchino, e lì noi ti va a far tagganare 40 sotto e 40 sotto. E invece non mi ha dato risposta, e stai lì dico cosa mi ha fatto. Cosa devo fare? Vabbè, io la penso pure, io la penso pure sì. Come... non lo so, cioè, poi ognuno... Io, se a me uno... uno mi dice... uno mi dice ti do una cosa per quella cifra lì, poi magari la trovo un altro e ne era di più, non funziona così, ma me l'hai promessa a me, per quella cifra lo dai a me, perché sennò alla fine com'è chiudi, cioè, io ci ho fatto così. Sì, ma lo siamo tutti precisi, e poi quell'altro microfono abbinato con l'inuiti, quello c'ha lo stesso l'eco, ed è più comodo di avere l'eco... tipo quella scatoletta che c'era nello Zodiac, lì ce l'hai tutto nel microfono, con lì noi ti basta abbinarlo e funzionava, anzi chi ti va via 40 canali AM/FM, chi due AM, lì noi AM/FM e 80 canali, 40 sotto e 40 sopra, ne ha canali, dunque è migliore. Oh, grazie, allora per i sugusti, vabbè dai, che sto chiudendo e noi stiamo uscendo. Ciao, grazie, ci sentiamo domani. Passiamo dopo al baracchino, dai, ci sei, ciao. Eia, ciao. Ciao Mari, rispondi al telefono. Perché il telefono è tuo? Sì, Aspetta. Oh, attento, dottore.